música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Ho domandato questa mattina ai miei amici su Facebook chi di voi si porta o si porterebbe addosso una pistola. Insomma, è una domanda folle, ma possibile domandare in un paese civile, agente civile, ma tu sei una persona civile, se vi portereste addosso una pistola, che mica siamo dei delinquenti, dei pazzi, dei maniaci. Che fare con una pistola? La pistola fa paura, soltanto guardarla, è qualcosa di alieno, di lontano dal mio livello di civilizzazione. Non vorrei mai addosso una pistola. Questo io pensavo che la gente mi avrebbe risposto. Invece il placido e confortante sensazione di averci addosso questo oggetto che in sé sembra un oggetto che nella sua pesantezza dà quasi un senso di disagio. Poi si immagina che quell'oggetto potrebbe scatenare un pandemonio, potrebbe crearci una sorta di elemento di potenza nei confronti del nostro prossimo, così vertiginoso, così forte e così suggestivo. E infatti le risposte sono state: ho voglia di sparare qualche volta, quindi è meglio che non abbia una pistola addosso, me lo dice Luca. Troppe tentazioni, mi dice Maria Vittoria, poi si finirebbe per usarla, anche se non si è violenti. Paolo mi dice: perché una pistola? Vorrei una K-47, ma soltanto per il fascino che sprigiona. Poi andando avanti, Flavia dice: no, nemmeno quando giro a piedi nel 18° a Parigi. Poi io con una pistola in tasca, imbranatamente mi terrei un colpo al piede. Luca dice che la porta spesso. Roberta dice che alza la mano, quindi la porterebbe. Barbara ama l'arma bianca. Poi ci sono gli spiritosi, che dice che vuole un bazooka e via dicendo. Beh, andando avanti invece vedo che si stanno approfondendo i messaggi, come quello di Verena, che dice: sparare a qualcuno è un'occasione unica nella vita, bisogna scegliere bene la persona, ma avere una pistola sempre dietro. Questo rischia di rovesciare un atto volontario, una volontà del momento, troppo veloce per trarne soddisfazione e gustarne la potenza. Beh, la domanda è questa: mi sembra di aver letto, anzi ho letto con sicurezza, ho davanti a me i dati, che in Italia c'è una sorta di non tanto percettibile, con numeri in velocissima crescita, ma comunque avvertibile, desiderio di armarsi, anche se poi le cronache ci confermano che un normale cittadino sprovveduto, pieno di tutte le sue debolezze, le sue paure, le sue incertezze, con un'arma in mano diventa qualcosa di nefasto per se stesso e per gli altri. Che farne di una pistola se poi non si è in grado di usarla? O che farne se quando la si usa poi vengono i sensi di colpa per l'uso che se ne è fatto? Meglio non averla, meglio non dare l'occasione a un nostro probabile aggressore di avere anche un'arma da fuoco in mano. Eppure il fascino della pistola sembra che continui a sedurre fortemente i nostri concittadini. Una pistola puntata addosso nel cuore della notte, fin dentro casa, pochi centimetri tra la vita e la morte. Secondi di terrore e il dubbio disperato su come andrà a finire. Ma se la mano che tiene la pistola non fosse quella del ladro o dell'aggressore, ma quella di chi si vede in pericolo, premere quel grilletto e sparare sarebbe o no difesa legittima della vita? E dove andrebbe marcata la linea di confine sottile e angosciante tra diritto a difendersi ed eccesso di difesa? Per molti italiani la partita a mano armata si gioca proprio su questa frontiera. Le armi legali in Italia sarebbero una cifra, oscilla secondo le varie fonti, fra i 10 e i 12 milioni. Sono 4 milioni e 800 mila le persone che posseggono almeno un'arma da fuoco. Sono 3 milioni le persone che hanno armi in casa, anche ereditati, vecchi ferri vecchi dei nonni, armi da collezione, comunque hanno un'arma in casa. Sono 800.000 le persone con licenza di caccia, ma ultimamente ci sono proposti legge per allargare questa facoltà di poter andare a sparare ai fringuelli, che poi penso che sia una specie protetta, comunque andare a sparare a passerotti anche ai sedicenni. Poi 171.000 178.000 sono le persone con una licenza sportiva, cioè che possono andare a sparare al piattello, ma comunque hanno un fucile, 50.000 guardie giurate, 34.000 privati con porto d'armi per difesa personale. Sarebbero 12 milioni, stime delle principali questure italiane, i possessori di armi da fuoco nel nostro paese, conto nel quale finiscono anche i cimeli storici e le armi per uso sportivo, che salgono a colpi, manco a dirlo, di molte migliaia all'anno. Scorciatoia quest'ultima ideale per poter girare con pistole e fucili carichi senza l'obbligo del porto d'armi per difesa personale. Quali sono le occasioni durante la giornata in cui rimpiangiamo di non avere una pistola accanto, ma poi immediatamente dopo ringraziamo la sorte che non ci ha messo una pistola a portata di mano? Anna Maria dice: qualche volta mi è passato in mente che mi sarebbe piaciuto averne una a portata di mano, soprattutto mentre sono al volante e incontro l'imbecille di turno che guida come un pazzo, mettendo a rischio la vita degli altri. Ecco, quello è il momento in cui, se uno avesse una pistola, perlomeno la tirerebbe fuori, la farebbe vedere, minaccerebbe, sparerebbe in aria o la userebbe in maniera propria, perché la pistola, è inutile dirlo, è un'arma che serve per uccidere, per sparare, per creare lesioni gravi e profonde nel fisico, nel corpo di un'altra persona. Mi è capitato, dice Elena, più di un'occasione pensare che mi sarei sentita più sicura con un coltello in tasca. Chissà perché molte persone preferiscono l'arma bianca, che in fondo è un'arma che richiede ancor più fare uno sforzo di recupero delle nostre facoltà pre-civilizzazione. Per uccidere, colpire con un coltello, difendersi con un coltello, occorre fare uno sforzo molto più grande. Abbiamo al telefono Laura. Laura ha 64 anni. Buongiorno, Laura. Sì, buongiorno. Io volevo raccontare un episodio che mi sembra significativo. Circa 20 anni fa, per motivi di lavoro, rientravo a casa molto tardi e con molto contante, per cui a un certo punto ho deciso di chiedere il porto d'armi che mi è stato concesso. Allora, una sera rientro... Che arma aveva? Scusi, vorrei sapere il particolare. Oh, avevo una semplice 22, beh, una robetta, ci fa poco. Una pistola detta da signora, insomma. Era meglio non avere nulla, perché con quella rischiava di far arrabbiare ancora di più la persona che l'aggrediva. Ma dipende, se uno è un buon tiratore, insomma, una 22 può anche essere dissuasiva. E dove avrebbe sparato lei, semmai, nel caso che avesse... Io avrei sparato all'aggressore, ma forse in una spalla, forse in una gamba. Beh, se è grosso con la 22 gli fa un baffo. Oh, no, non credo, no. Comunque io mi sentivo molto sicura e molto... come dire, protetta da questa pistola. Una sera rientro a casa, apro il garage, c'era un garage comune, era un grande condominio con un garage comune, entro nel garage comune e vedo un'ombra che scivola dietro di me all'interno del garage. Già comincio a spaventarmi, allora apro il cruscotto, tolgo la sicura. Vedo quest'ombra che si acquatta fra una macchina e un'altra. Quindi teneva il colpo in canna? Assolutamente. Brava. Ero lì pronta a sparare quando vedo che si alza il vicino brontolando e dice: sì, mi sono cadute le chiavi, non riesco nemmeno a entrare in casa mia. Sono stata un attimo dallo sparare. E da quel momento ha capito la pistola. Da quel momento ha capito che non si può portare la pistola, a meno di essere veramente allenati ad usarla con, come posso dire, con equilibrio. Quindi non l'ha più portata dietro? No, assolutamente, mai più. Cosa ha fatto? L'ha venduta? No, l'ho restituita. Va bene. L'ho restituita all'armaiolo che me l'aveva venduta. Siamo contenti che lei si sia evitata una brutta causa per aver sparato a un poveretto a cui erano cadute le chiavi, ma soprattutto siamo contenti per quel signore che non avrà mai spazio per ringraziare i suoi dei protettori di aver aspettato un istante prima che lei premesse il grilletto. Grazie Laura, buongiorno. E passiamo a questo punto, visto che Laura ci ha prestato il fianco, i numeri li sapete, sono l'800240024, l'esperienza della nostra ascoltatrice che ha chiamato a caldo mi sembra significativa. Quanti tra di voi hanno un mestiere, una professione o una particolare collocazione geografica del loro quotidiano, per cui hanno pensato che comunque una pistola in tasca risolverebbe a loro il problema e l'angoscia e il rischio, o potrebbe dare loro quella sicurezza magari gli manca ogni giorno. Chiamate 800 24 00 24 e passiamo a un esempio molto più lontano nel tempo e lontano anche nel luogo dell'immaginario in cui si è prodotto, ma significativo rispetto all'argomento di oggi. Ha una 44 Magnum. È un'arma che costa. Ah, ce l'ho i soldi. Brutta bestia, sa. Ti fermo una macchina a 100 metri. Con una pallottola buca il motore. È un'arma che non perde mai di valore. Guardi che perfezione. Potrei venderla a qualche testa calda di Harlem per $500. Ma io preferisco sempre vendere gente di qualità. Che gliene pare? Forse è un po' troppo ingombrante per essere pratica. In questo caso per lei consiglierei questa 38 2 pollici. Guardi. Anche questa è una gran bell'arma. Acciaio cromato, canna corta. Oppure la stessa ma di acciaio brunito. Questa le ferma qualsiasi animale. La Magnum la usano molto in Africa per gli elefanti. Una delle scene indimenticabili di Taxi Driver di Martin Scorsese, che è un film del 76, in cui il tassista Robert De Niro, Travis, a un certo punto, stanco di vivere la notte con tutte le sue sopraffazioni, le sue uscite dalla regola, le sue violenze, le sue prepotenze, decide di armarsi. Decide di armarsi, ma lo fa nella maniera più esagerata possibile, non come la nostra ascoltatrice che si compra una pistoletta da signora, una calibro 22, ma che comunque pur sempre un'arma capace di uccidere se usata in maniera con questa volontà, appunto. E va da un armaiolo spacciatore, ricettatore, via dicendo, lo porta in una stanza d'albergo e sciorina il corredo delle sue armi aprendo sul letto queste valigette, e lui comincia a scegliere e sceglie una gamma di armi, dalla più potente, la più devastante, la famosa 44 Magnum, che era molto vicina a un immaginario cinematografico. C'era tutta una serie di ispettori di polizia che usavano quest'arma nefasta, potentissima, che poi era una sorta di giocattolone, quasi un cannone, impossibile portarsela addosso, un'arma da scena, proprio un'arma da film. E un'altra serie di pistole comincia a cambiare radicalmente la sua vita. Ci sono pistole che sono giocattoli, ma quella lì no. Lei la può usare tutto un giorno come martello, poi va a sparare e le fa un centro dopo l'altro. Ha una meccanica di precisione ed è robustissima. Le interessa un'automatica? Questa è una Colt 25 automatica. 5 colpi nel caricatore e il 6 in canna. Se è così imprudente da mettercelo. Ecco, guardi questa. È una 38 Walther. 8 colpi nel caricatore. Guardi qui. Ha una meccanica perfetta. Gran bella pistola. Durante l'ultima guerra molte P38 le sostituivano con questa. Le davano solo agli ufficiali. Poi naturalmente il rapporto simbiotico fra un uomo e un'arma da fuoco crea naturalmente un mostro. Va molto oltre la necessità e la volontà di difendere se stesso, diventa una sorta di giustiziere. Il film terminerà, lo ricorderà chi lo ha visto, ma saranno in molti averlo visto, con una terribile carneficina finale in cui lui fa un massacro di papponi, spacciatori, delinquenti. Insomma, l'uomo che acquista o decide di acquistare, l'uomo, la donna, l'essere umano civilizzato e urbano, di acquistare un'arma da fuoco, inizia creandosi una giustificazione: mi serve per svolgere meglio il mio lavoro, mi serve per sentirmi più sicuro, mi serve perché oggi gira un sacco di brutta gente, mi serve perché gliela faccio vedere io, mi serve perché ora qualcuno faccia polizia, mi serve perché se non ci pensano le forze dell'ordine è giusto che ci pensi il cittadino. E quindi in una terribile deleteria escalation il pistolero si trasforma in una sorta di giustiziere. Ma io vorrei far dare qualche consiglio, qualche valutazione da chi comunque per mestiere, per professione, ha la perfetta cognizione cosa significhi avere un'arma addosso, e forse può dare qualche consiglio a quanti, come la signora che ha aperto la nostra trasmissione, si era comprata una pistola per sentirsi sicura, ma è stata in procinto di uccidere una persona che era un semplice passante, cui era cascato un mazzo di chiavi. Tiziana Ventura, buongiorno. Buongiorno. buongiorno. Ecco, la nostra ospite è stata tenente dei carabinieri, è direttrice della sicurezza di importanti aziende, se vuole poi lei potrà dirle. Attualmente è security manager di un'altra azienda che gestisce appunto le risorse idriche napoletane. Insomma, è una persona che sa esattamente quale sia la responsabilità e il peso di avere un'arma da fuoco addosso, soprattutto penso quando le apparteneva l'arma dei carabinieri, dottoressa. Certamente. Personalmente, nel momento in cui ero nell'arma dei carabinieri, l'uso dell'arma rientra in una condizione dello strumento, penso, totalmente diversa da come ne può fare un libero cittadino che avverte l'esigenza di dotarsi di uno strumento di difesa personale. Beh, in quel caso è lo strumento di lavoro, è necessario che un tutore dell'ordine abbia un'arma addosso, quindi la userà con tutto l'addestramento necessario comunque. Esattamente, la si vive con maggiore consapevolezza, con un adeguato addestramento, lo strumento arma diventa a far parte di una routine, di una quotidianità, come si indossa la divisa, si indossa l'arma. È chiaro che la consapevolezza che può avere una persona che fa parte delle forze dell'ordine con un addestramento appropriato, dedicato, è diverso. Ecco, noi abbiamo avuto una signora che ha aperto la nostra trasmissione raccontando che portava tutte le sere dei grossi valori, quindi per sentirsi sicura si è comprata una pistola. Ma è sufficiente comprare una pistola, ammesso che si abbiano i requisiti per avere il porto d'armi, e tenerla addosso senza essere minimamente addestrati? Non può essere pericoloso anche per se stessi? Assolutamente sì. Un'arma indossata con scarsa consapevolezza e capacità di utilizzo diventa uno strumento pericoloso per sé e per gli altri, indubbiamente. Io lo sconsiglio, non sono una fautrice di possedere un'arma comunque, no, l'arma è uno strumento, va usato bene, va conosciuto, diversamente è pericoloso per sé e per gli altri. Ecco, vorrei sentire un attimo Roberto, mentre cerchiamo di recuperare la telefonata della dottoressa Ventura, che la sentiamo un po' male. Roberto, buongiorno. Guardate, buongiorno. Niente, ho telefonato perché mi ha fatto molto sorridere la signora prima con la calibro 22, perché era soltanto per dire che lei, quando ha detto che avrebbe sparato alla spalla o alla gamba, allora le dico soltanto una cosa: io ho una pistola molto più grande, una 9x21, e sono tanti anni che vado al poligono. La prima volta che sono andato al poligono, un bersaglio da 10 metri è vicinissimo, i primi 10 colpi il bersaglio ha una grandezza, diciamo, di un metro quadrato. Non ho neanche preso il cartone, ho sparato, ho detto: ma dove ho sparato? Sparare con una pistola è difficilissimo. Poi voglio dire un'altra cosa, io spesso vado al poligono 2 o 3 volte a settimana. Lei la pistola la usa per motivi di lavoro? No, io soltanto per hobby, difatti non ho il porto d'armi, ma soltanto per uso, diciamo... Quindi solo nel tragitto tra casa sua e il poligono? Proprio. Esatto, al tragitto. Comunque più volte durante il tragitto mi è capitato di avere problemi con qualcuno. Sì, ma deve portarla smontata l'arma, non sì, può portarla. Sì, sicuramente. Quindi non può usarla. Smontata, ma una persona pratica, come posso essere io adesso che ho esperienza, io la monto e la smonto al buio, non ho bisogno neanche sì, della luce. Però le faccio volevo dire una cosa. Mi scusi, sì. Se sorrido un po', ma in caso d'aggressione, sua che fa, dice: aspetti un attimo, apro la ligetta, la monto e poi ne parliamo. Ma non è il problema, perché io innanzitutto non sparerei a nessuno, ma neanche se dovesse capitare di avere un diverbio automobilistico come mi è capitato di avere. L'ultima cosa che fa una persona razionale è quella di usare un'arma, anche se ha un'arma. Questo è quello che dico io della mia esperienza, perché io la uso così, ma mai mi è venuto in mente di adoperarla. Mi diverto, sono contento di saperla usare, basta. Poi il fatto di sapere che una signora spara a una spalla, una gamba, cioè, se lei ha un revolver, la pistola che veniva usata una volta dai poliziotti, qualcuno ce l'ha ancora, ha una canna talmente corta che lei a un metro non prende neanche la persona, capisce? Cioè è difficilissima da usare. Quindi riportiamo la situazione alla realtà. Usare un'arma da fuoco corta, innanzitutto, non è così semplice come si vede nei film, per avere delle possibilità minime di centrare un bersaglio, di poter scegliere anche la parte del bersaglio che si vuole colpire, occorre un grosso addestramento. Abbiamo recuperato la dottoressa Tiziana Ventura, concorda con quello che ha detto il nostro ascoltatore? Assolutamente sì. Assolutamente sì, e aggiungo, anche nel caso in cui l'arma diventa uno strumento di lavoro come può essere per un appartenente alle forze dell'ordine, è ben noto a chiunque ne faccia parte che l'arma va tirata fuori esclusivamente in momenti di estrema emergenza e pericolosità. L'arma non va maneggiata se non c'è un assoluto pericolo o una situazione immediata di autodifesa, perché l'arma potrebbe anche poi innescare reazioni conseguenziali che magari chi ci ha di fronte forse non vorrebbe spingersi fino a un certo punto, ma in un certo senso verrebbe quasi spronato da chi per primo la tira fuori e inizia un'azione di intimidazione. Sì, anche perché si dà un'arma, si dà un'arma in mano a un aggressore, ammesso che l'aggressore non abbia un'arma da fuoco, una persona sprovvista e goffa nel maneggio dell'arma, praticamente gliela mette in mano, è come se lui potesse usarla. Assolutamente sì. Ed ecco che diventa uno strumento estremamente pericoloso e molto probabilmente ad innescare la reazione è la stessa persona che stava per subire l'aggressione. Quindi mi sembra di capire che il consiglio della dottoressa Ventura è che non è poi così semplice, così immediato avere un'arma e sentirsi sicuri, ma in realtà molte volte potrebbe essere ancora più drammatico e più rischioso tirare fuori un'arma se non sei in grado di usarla. Melog 2.0. Ci sono più di 550 milioni di armi da fuoco in circolazione nel mondo. Significa che c'è un'arma da fuoco ogni 12 persone sul pianeta. La domanda è: come armiamo le altre 11? Questa è la domanda che si pone Nicolas Cage, Lord of War, il film del 2005, parla di uno dei più famosi trafficanti e venditori d'armi, ma non è certo colui che cerca come clienti i nostri ascoltatori che stanno chiamando all'800 24 0024 per parlare del loro sogno proibito di avere una pistola in tasca, per comportarsi un po' come probabilmente nel giorno di ordinaria follia Michael Douglas si comporta in una giornata terribile, torrida, terrificante, lungo una fila indistricabile di automobili, si sente preso da un senso di ribellione. Era un giorno brutto per lui, la moglie l'aveva lasciato, aveva perso il lavoro. Entra in un bar, ha a che dire con il barista e inizia un'escalation. Lì si procura una mazza da baseball con cui mazzola due latinos ai quali prende un coltello, poi dal coltello passerà una valigia di mitragliatori e comincerà a diventare una sorta di pazzo killer scatenato dentro la folla. Mi hai mancato. Io ti ho mancato. Ti prego, no, non sparare. Non sparare, ti prego, non sparare. Ecco, hai visto? Solo una dimostrazione. Impara a sparare, stronzo. Così William Bill Foster, un normalissimo cittadino, preso da follia, preso da senso di rivalsa, preso da voglia di riscatto, diventa un ospitatissimo maneggiatore di armi, ma cosa che invece non accade a Loris. Loris, buongiorno. Buongiorno. Lei gira armato con 3 pistole. Io lavoro per una ditta, sono un trasportatore di valori. Quindi adesso, giustamente deve girare armato. Io sono 30 anni che giro, ho il porto d'armi per difesa personale, tengo regolamentari perché nel massimo per difesa personale puoi detenere 3 pistole. Ma non tutte insieme addosso? No, ho diversi calibri anche perché ero un appassionato. No, Taxi Driver ne teneva una con la famosa fondina messicana, un'altra sarà fatta una sorta di carrello scorrevole, un'altra ne portava in tasca. No, ma comunque portandole sempre addosso ci vogliono delle pistole comode, non ci vogliono delle pistole... Lei che si porta di comodo? Io ho una 38 Special, ho a casa, adesso non la porto più, ho una 38 Special Light, cioè leggera. È in carbonio, molto leggero, non la senti neanche, è una piuma, però non è questo che volevo dire. E dove la teneva? Dire. La tenevo nella cintura. Oh. Sì, ho sempre girato armato. Io ho avuto una rapina circa una decina d'anni fa, ho subito una rapina, un'aggressione da parte di 4 malviventi, dopo si sono rivelati 4. Non mi hanno perquisito, per cui la pistola l'avevo sempre dietro. Allora avevo una pistola spagnola, una semiautomatica, Astra. Un'Astra, ecco come si chiamasse. Fatto sta che quello che è rimasto di guardia, ma le valigie le avevamo portate via, è rimasto di guardia fuori da una porta vetri, ho estratto la mia arma, ero molto arrabbiato, ho detto questo lo ammazzo, e la pistola si è inceppata. Sì. Si è inceppata la cartuccia, è andata di traverso, il carrello non è... insomma, non ha sparato, si è fermato a mezza via così e mi è andata bene. È stato fortunato, tutto sommato. Molto fortunato, perché se avessi fatto una cosa del genere, che le valigie non le avevo più, e avessi ucciso questa persona, io sarei andato nei guai molto seri. Sì, era un eccesso di legittima difesa, non era motivato. Esattamente. Io da allora l'arma non la porto più. Le ho, sono custodite in un armadio a casa, che neanche i miei figli e neanche mia moglie sa la combinazione. Non vado più al poligono, quest'anno è l'ultimo anno che lavoro, per cui ho già parlato con un armaiolo, per cui le venderò tutte, anche l'arma d'aria compressa che ho. Mi è andata bene, mi ritengo una persona fortunata, sono felice di non aver ammazzato uno. Io volevo dire una cosa comunque a chi ha il sogno dell'arma. Meno male, dico, che ci sono delle leggi severe in Italia, perché uno, se vuole delinquere, l'arma se la procura lo stesso, poi ammazza le persone lo stesso, come fanno i banditi, mafiosi, certo, eccetera. Un'arma per delinquere non si va a comprare dall'armaiolo, è chiaro. Io dico solo che meno male che ci sono delle leggi severissime in Italia, molto severe per quanto concerne la detenzione delle armi e il possesso di arma, perché io devo fare la visita tutti gli anni, costa qualcosa come quasi 300 euro. Quasi 300 euro l'anno, tra visite mediche, esami che devi fare, eccetera, tutti gli anni. Due mesi prima che scada il libretto di porto di rivoltella o semiautomatica. E dico, meno male che ci sono delle leggi severissime e le persone non possono accedervi se non hanno una motivazione seria di pericolo. Senta, solo una domanda, voi portavalori siete assicurati sulla merce che trasportate? Sì, io adesso ho aumentato moltissimo l'assicurazione, anche quest'anno ho fatto un aumento di assicurazione. Quindi che senso ha girare con un'arma? L'assicurazione vi copre lo stesso anche se non siete armati? Sì, no, copre, no, non c'entra niente, l'arma ti dà, almeno in questo caso a me dava... Sto più sicuro adesso, per esempio, che non ce l'ho, però ho girato per più di 20 anni con l'arma, perché mi dava sicurezza, cioè quando ti fermi alla sera col buio dell'inverno e delle macchine che ti seguono in moto, perché poi mi sono capitate... No, io faccio un ragionamento, mi scusi, non essendo del mestiere, molto stupido probabilmente, dico, no. Ma se tanto sono assicurato, il primo che si avvicina gli mollo il bottino e me ne vado, che mi importa? Perché devo rischiare di tirare fuori una pistola? Mi viene in mente per così. Per esempio, a me è capitato... A Modena, precisamente a Vignola, mi capitò dovevano essere zingari, insomma, dalla Carnagione, ecco, due rom col coltello. Col coltello, però io avevo la pistola, gliel'ho fatta vedere. Pistola coltello vince pistola, chiaro. Chiaro, però se mi capita una cosa del genere, tu tiri fuori la pistola, allora portavo una 44, fa paura quella lì, ecco, sì. La vedi, e quindi hanno fatto una fuga a piedi lasciandoli anche la macchina, sì, sono scappati via lasciandoli anche la vettura, perché si erano veramente presi paura. Quindi in quel caso il deterrente ha funzionato. Grazie Loris, buona giornata. Leonardo. Buongiorno. A lei cosa è capitato invece? Io purtroppo durante il servizio militare, perciò avevo 19 anni, perciò ero armato mio malgrado e stavo quasi per uccidere un mio commilitone. Per scherzo, durante una guardia, scherzavamo, guarda che ti ammazzo, e ci sono andato vicino. Ecco. È la cosa più idiota che si può fare, questo lo sa sì, benissimo. Infatti. Cioè, diciamo, il servizio militare serve a poco, ma perlomeno... il mese o due mesi del CAR, quello che spiegavano sempre è che non si gioca con le armi, perché... Lo so, però nonostante l'addestramento, cose varie, io avevo 4 caricatori addosso, io e il mio commilitone. Sì, poi era... E diventava routine, perché ogni giorno ce l'avevi addosso. Non era un fucile a tappi, perché era un 7,62 nato. Ora io non mi ricordo neanche, però era un fucile che sparava fino a 2,7 km, sì, tiro utile. Era un FAL, se non sbaglio, dato che l'età che può aver fatto il militare, quindi era un'arma che faceva abbastanza male comunque al suo No, faceva In più mi ricordo quella volta che ho sparato, l'unica volta che ho sparato, no l'unica, oltre a quella quando ho fatto le prove, insomma l'addestramento, cioè un caricatore in 10 secondi lo finiva, ecco. Sì, insomma, cosa che non andrebbe fatta, quindi l'addestramento era abbastanza sommario. Grazie, buongiorno. Torniamo a Tiziana Ventura, che è il nostro ospite esperto. Ricordo che è stata tenente dei carabinieri, direttrice della sicurezza agli stabilimenti Fiat di Pomigliano d'Arco e Cassino, e attualmente security manager dell'Arin SPA, l'azienda che gestisce le risorse idriche napoletane. Secondo me, già sentendo tutte le telefonate dei nostri ascoltatori, si è fatta un'opinione che in fondo il senso comune prevale sul desiderio di avere un'arma. Qualcosa da aggiungere su quello che ha sentito, dottoressa? No, soltanto condivido quanto ha detto il signor Rory che avete intervistato, e su questa cosa forse un attimo ancora una riflessione: l'importanza di saper usare bene un'arma. In quel caso il signor Rory è riuscito a raddrizzare il tiro, ma perché aveva piena consapevolezza dell'oggetto che stava maneggiando. Questo si riconduce un po' a quello che dicevamo prima, no? Un'altra cosa importante, che è propria di chi fa un corso e la maneggia in un certo modo, è sicuramente saper ben gestire un momento dello sparo, che è quello immediato alla partenza del bossolo, che è il rincuro. Anche quello è una cosa che, se non ben gestita, può creare delle conseguenze. Ecco, ma per una donna questo momento particolare, il rinculo di un'arma da fuoco, è un problema, visto che nella maggior parte dei casi ha una forza muscolare inferiore a quella dell'uomo? In questo caso, cosa si consiglierebbe se proprio non se ne potesse fare a meno? Un calibro diverso? Non ne faccio una questione di calibro, né di donna o di uomo, ma adeguato anche addestramento fisico. Oggi lo sport viene praticato in maniera seria. Chi fa un uso delle armi e chi ha una preparazione anche atletica adeguata o un attimo di irrobustimento di muscolatura riesce a gestire qualsiasi tipo di arma. E questo lo dimostra anche... Parlo da donna e parlo da donna ex ufficiale dei carabinieri, che ho fatto un addestramento all'uso delle armi identico a quello degli uomini. In quel caso venivamo addestrati tanto ad utilizzare un'arma di piccole dimensioni quanto un fucile. Il fucile è estremamente più pesante e comunque veniva sostenuto bene da donne come da uomini, come ci sono stati degli uomini che sono risultati più deboli di altre donne e viceversa. Quindi non esiste una differenza di sesso, di struttura fisica, ma in realtà il vero deterrente o il vero strumento di prudenza deve essere quello della consapevolezza che avere un'arma comunque richiede un addestramento e delle qualità anche di tenuta psichica non indifferenti. Grazie, dottoressa Ventura. Fabrizio Intonti e Paolo Corleone dicono che io faccio il 4 questa mattina perché faccio quello che vorrebbe istigare le persone a usare armi potentissime. Lasciatemi fare ogni tanto il mestiere di provocatore. In realtà io, l'arma più potente che ho avuto in mano nelle ultime settimane è la Desert Eagle a pallini di mio figlio, aria compressa, che è un giocattolo, serve per sparare soldatini. Beh, abbiamo accennato all'inizio della prima parte al signor William Bill Foster, Michael Douglas, preso da un giorno di ordinaria follia, che ha cominciato a maneggiare da una mazza da baseball a un coltello a mitragliatori, con cui poi rivendica anche il proprio diritto di avere l'hamburger preferito o la colazione al posto del pranzo in un McDonald's. Non è la nostra politica. Lei può avere solo quello che è nel menù dei pranzi. Io voglio la colazione, non lo voglio il pranzo. Abbia pazienza, mi dispiace tanto. Ah, sì? Dispiace tanto anche a me. Ehi, calmi, state calmi laggiù. Ehi. No, si sieda e continui a mangiare, avanti. Mangiate tutti con calma, non è successo niente. Avete tutti bisogno di vitamine A, B, C. Solo il grilletto, state calmi. Solo il grilletto che è sensibile. Certo, vedendo film del genere tutti hanno un attimo la lussuriosa vertigine di poter provare questo panico diffuso attorno a sé solo per il fatto di avere un'arma da fuoco in mano. Esiste un profondo e insanabile istinto di morte in ognuno di noi, di compiere il titanico atto dell'omicidio del nostro nemico. Ne abbiamo parlato più volte, ci siamo distinti nel male per aver tirato fuori il peggio dei nostri ascoltatori, che ci hanno raccontato e confessato di aver desiderato di uccidere anche con le unghie e con i denti il proprio vicino di casa solo perché faceva rumore, e poi infatti accadono i fatti di Erba. Ma c'è anche il fatto che avere un'arma in mano da fuoco è una grande dimostrazione di potenza. L'arma fa rumore, l'arma getta nel panico, fa scompiglio. L'arma, insomma, ci fa sentire forti anche quando non abbiamo o pensiamo di non avere le risorse per sentirci forti. Pino, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Niente, volevo darle la mia opinione. Sono 10 anni che per lavoro ho il porto d'armi personale, per difesa personale. Io le posso dire questo, quello che sento io è un grosso senso di responsabilità, nel senso che è un attrezzo pericoloso e non so, le faccio l'esempio, quando vado in ferie, quindi per un periodo non ho l'arma dietro, quando ritorno a lavorare per i primi giorni, la prima settimana, non la porto, perché mi sento più leggero, cioè sento molto la responsabilità di avere un'arma addosso. Ciò non toglie che ritengo che sia per certi lavori indispensabile e che non è un attrezzo più pericoloso di altri. Cioè si avverte quel peso addosso che fa parte ormai del nostro armamentario quotidiano. Uno che è abituato da 10 anni a uscire con un'arma in tasca, penso che comunque è come quando noi usciamo senza telefonino, manca qualcosa quando non ce l'ha. No, è la responsabilità della pericolosità. Perché anche nel momento, insomma, se tu hai un'arma dietro, sai anche che potrebbe accadere che tu la debba usare. L'ha mai usata lei? No, fortunatamente no. Quindi senti questo peso, questa responsabilità, però le dico, non mi pare che sia un attrezzo più pericoloso di altri. Voglio dire, la macchina, che è un mezzo che utilizzano tutti, mi pare che faccia dei morti, voglio dire, no? E mi pare che ci siano persone che, insomma, è notizia di qualche giorno fa che un signore voleva uccidere una persona passandoci sopra con la macchina, voglio dire, no? È un mezzo, come ce ne sono altri. L'incidente poi può sempre accadere. Come sì, la differenza è che un'arma è studiata, immaginata, pensata e progettata per fare del male, per ferire, colpire e creare delle lesioni nel corpo di un nostro simile. Quella è la differenza. Anche il mattarello da cucina è stato usato ultimamente per ammazzare una persona e metterla in valigia, ma serve per fare la pasta sfoglia. L'arma invece, chi la pensa perché faccia il più male possibile. Questa è la differenza. Grazie Pino. Gabriele. Buongiorno, sono un posso parlare? Come no, la sto ascoltando. Sì, scusi, non avevo capito se ero già in linea. Sono un farmacista di 68 anni e anche mia moglie è farmacista. Complessivamente abbiamo avuto 8 rapine in farmacia nella nostra esperienza. L'ultima, l'8 marzo del 2008, è stata una rapina a mano armata fatta da 3 persone. E devo dire che di tutte le rapine che abbiamo avuto è stata quella che ci ha meno impaurito, perché, se posso usare un'espressione virgolettata, i rapinatori erano molto professionali, perché è vero che avevano tutti quanti la pistola in mano, però la prima cosa che hanno fatto, ci hanno detto: state calmi, non succede niente, vi chiudiamo in bagno e basta. E certo, così è successo. Immagino che sia meglio che avere un drogato con una siringa in mano che non si sa. Esatto, in quel momento ha avuto anche quella, e ho avuto molto più paura di, non ha minacciato me, ha minacciato una cliente con una siringa, e in quel momento sono rimasto molto più terrorizzato di un'esperienza di quel genere piuttosto che quella con la pistola. Per quanto riguarda complessivamente la mia opinione è che ritengo che le leggi che ci sono vadano mantenute, perché basta guardare le forze dell'ordine che sono addestrate ad usare le pistole, lì gli incidenti di uso della pistola praticamente non se ne sentono. Grazie, infatti sentiamo Francesco, appartenente alle forze dell'ordine, dice: c'è un aspetto psicologico legato all'uso delle armi. Buongiorno Francesco. Sì, buongiorno. Niente, io volevo semplicemente innanzitutto fare una piccola premessa, che secondo me un cittadino armato non è sicuramente un cittadino più sicuro rispetto a un altro cittadino armato. È anche un problema per voi, forse, un cittadino armato? Il cittadino armato, diciamo così, nella legalità, quindi col porto d'armi, no, perché comunque si presuppone che ci siano dei requisiti fisici e psicologici, e comunque anche di buona condotta, che quindi il cittadino che ha il regolare porto d'armi non dovrebbe rappresentare una minaccia. Più che altro io voglio intervenire in maniera specifica proprio sull'aspetto psicologico della pistola, perché anche per noi appartenenti alle forze dell'ordine avere la pistola, quindi essere armati, è un deterrente psicologico nei confronti della criminalità, del delinquente, anche perché tengo a precisare che noi l'arma da fuoco possiamo utilizzarla in linea di massima solo dopo che, in caso di conflitto a fuoco, che il criminale o comunque il malintenzionato abbia iniziato il conflitto a fuoco. Quindi, in buona sostanza, io l'arma la porto addosso non tanto per difendere me, ma quanto eventualmente per difendere o il collega o il cittadino. Senta, resti un attimo in ascolto, perché proprio l'ultimo istante, solo una battuta, c'è Alessandro che invece espone, ma proprio a 30 secondi dalla fine, una teoria antitetica rispetto a quello che abbiamo detto. Alessandro. Buongiorno. Secondo lei portare una pistola deve essere un diritto come avere un cane o una bicicletta? Ma allora, il concetto è questo, fermo restando i requisiti, e un cittadino che desidera fare la patente per acquistare un'automobile o avere la licenza di porto di pistola per difesa personale, se maggiormente vagliato oppure semplicemente per uso sportivo, è un diritto di qualsiasi cittadino. Ma infatti nessuno lo nega per diritto sportivo e nessuno nega chi abbia i requisiti di avere un'arma per difendersi. D'altro canto, io credo, a mio titolo personale, che coloro che hanno un vaglio da parte dell'amministrazione pubblica sono anche cittadini che sono innanzitutto selezionati. E poi queste persone fanno un percorso di crescita all'interno di poligoni, di strutture dove si prende maggior consapevolezza della responsabilità. Sì, ma questo è chiaro. Io avevo capito che in realtà lei invocasse, come nel vecchio selvaggio West, il diritto comunque di avere un'arma, averla, perché fa parte di un accessorio indispensabile al sentirsi cittadini, ma evidentemente mi ero sbagliato e ne sono anche contento. Ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.